Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Le persone in ascolto, questa è Restiamo Animali, una trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free. Siamo arrivati alla puntata numero 469, nella quale parleremo di allevamenti di insetti che aprono, di allevamenti di visoni che chiudono e del nuovo pensiero antispecista che crea intersezioni. Speriamo di avervi incuriositi. La redazione di Restiamo Animali è composta da Camilla Lattanzi, Giuseppe Coco, Roberta Marino, Gabriele Palloni, Zenone Sovilla, Francesca De Matteis e Lorenzo Guadagnucci. Cricket Farm e si trova a Scalenghe, nel Torinese. È un allevamento di grilli, una novità nel panorama italiano, nata dalla collaborazione di un gruppo di imprenditori che ha deciso di puntare su un progetto all'avanguardia, creare la prima entomo farm del paese. Al suo interno si allevano insetti destinati per ora all'alimentazione di animali esotici. In uno stabilimento ampio 3.000 metri quadri, attualmente si producono, questo è il verbo usato nel comunicato stampa aziendale, 200.000 grilli al giorno, destinati alla cosiddetta terraristica. Ma l'azienda è pronta ad arrivare a 2 milioni al giorno. Lo sguardo, infatti, è rivolto al futuro, a quando il regolamento dell'Unione Europea sul Novel Food, entrato in vigore il 1 gennaio 2018, sarà recepito anche in Italia, permettendo la commercializzazione e il consumo di insetti per l'alimentazione umana. A scommetterci sono due imprenditori del settore alimentare, Silvia Giacosa e Giancarlo Lovera. Ci sentiamo dei pionieri, spiega Silvia Giacosa. L'idea è nata circa 2 anni fa. Non esistevano allevamenti di questo tipo, se non piccole realtà con produzioni limitate. A livello industriale siamo gli unici. Ci siamo avventurati in questo settore e abbiamo affrontato molte difficoltà, ma ci crediamo e lavoriamo con entusiasmo. L'obiettivo è arrivare alla produzione di farina di grillo, una polvere ad alto contenuto proteico per scopi alimentari, come avviene in molte parti del mondo. La velocità di riproduzione dei grilli, il basso impatto ambientale della produzione e le proprietà nutrizionali ne fanno una risorsa importante per contrastare la fame nei paesi più poveri. Da parte nostra, come redazione, notiamo ancora una volta che gli allevatori ormai si propongono regolarmente come neo-ecologisti, attenti all'ambiente e animati da fini filantropici. In questo caso si parla addirittura di combattere la fame nel mondo. Se mai doveste sentire un allevatore sostenere di fare il suo lavoro per profitto, per favore, fatecelo sapere. Thank you. aprono allevamenti di grilli, gli scienziati, con l'aumentare della popolazione mondiale, si stanno dando da fare per concepire una dieta in grado di sfamare entro il 2050 circa 10 miliardi di persone. È uscito un nuovo studio sulla rivista medica The Lancet, che ritiene di aver centrato l'obiettivo. Raccomanda una dieta a base di vegetali con piccoli e occasionali strappi a favore di carne, latticini e zuccheri. Il documento è stato realizzato da 30 scienziati impegnati nel campo della nutrizione e delle politiche alimentari provenienti da tutto il mondo. Anche piccoli incrementi nel consumo di carne rossa e latticini renderebbero questo obiettivo difficile o impossibile da raggiungere, spiega una sintesi dello studio. Gli autori sono giunti alle loro conclusioni valutando i diversi effetti collaterali della produzione di cibo. Hanno incluso le emissioni di gas serra, il consumo di acqua, l'azoto e il fosforo utilizzati come fertilizzanti e i possibili danni subiti dalla biodiversità di un paese in caso di riconversione all'agricoltura intensiva. Riuscendo a gestire tutti questi fattori, il report conclude che le emissioni potrebbero essere ridotte a sufficienza e che potrebbe essere salvaguardato abbastanza suolo, riuscendo comunque a sfamare la crescente popolazione mondiale. Se non prendiamo provvedimenti ci troveremo in gravi difficoltà, ma gli incentivi e le attuali strutture politiche non rendono agevole il cambiamento. Cambiare la destinazione dei sussidi per l'agricoltura, sottolinea il rapporto, è ad esempio un modo per ristrutturare il sistema alimentare. Cambierebbero i prezzi dei prodotti, fornendo un incentivo per i consumatori. Se però un simile piano sia effettivamente in grado di affermarsi nel mondo è tutt'altra questione. Negli Stati Uniti, tra produzione diretta e indotto, ci sono 1 milione di persone le cui vite sono legate all'industria casearia. Anche educare i consumatori avrebbe però una grande efficacia. Per quanto difficile possa sembrare, cambiare le proprie abitudini alimentari avrebbe anche dei grandi vantaggi economici. Lo spiega Catherine Kellogg, autrice del libro 101 modi per andare verso rifiuti zero. Kellogg stima che la cifra mensile risparmiata potrebbe aggirarsi intorno ai $250. Alla faccia di chi pensa che mangiare vegano sia più costoso. Naufragano in 120 a 45 miglia da Tripoli, in totale assenza di soccorsi. Ne sopravvivono solo 3. Altri 53 sono annegati nel mare di Alboran, nel Mediterraneo occidentale. C'è un unico sopravvissuto, che è stato soccorso dopo essere rimasto in balia delle onde per oltre 24 ore. Sono oltre 200 le vite di uomini, donne e bambini spezzate dall'inizio del 2019 solo dalla impossibilità di entrare in Europa legalmente. La nostra redazione difende la possibilità di migrare per ogni essere vivente in cerca di risorse e di futuro. Non c'è alcuna differenza per noi tra il bisogno o il desiderio di spostarsi nello spazio di un orso, di una rondine, di un pesce o di una persona della nostra stessa specie. Questo pensiero, che evidentemente è molto ostico da essere compreso, è un pensiero squisitamente animalista, ammettendo una buona volta di essere noi stessi degli animali. Ma è anche un pensiero antispecista, cioè un pensiero che mette in connessione le questioni umane e quelle non umane, le lotte per la liberazione animale con le lotte per la liberazione umana. Per capire meglio questa strana bestiola chiamata antispecismo, abbiamo chiesto ad alcuni pensatori antispecisti di preparare delle brevi lezioni. E il risultato è questa rubrica, l'antispecismo spiegato a mia nonna. Il pensatore di oggi è Massimo Filippi, filosofo dell'antispecismo e autore dei migliori libri su questo tema.

Ah, eppure è vita, ma ci sentite da lì? In questi alberghi immensi siamo file di denti al sole, ma ci piace, sì, ricordarvi in italiano. E mentre ci dondoliamo, e mentre vi trasmettiamo, trasmettiamo da una casa d'Argentina, con l'espressione radiofonica di chi sa che la distanza è grande, la memoria cattiva e vicina. E in tema antispecista è anche la ricetta di oggi, curata dal tosco vegan chef Gabriele Palloni, all'interno del suo spazio etico-gastronomico, Il Pasto Gentile. Il Pasto Gentile, un frigorifero senza crudeltà. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Be that man. Parliamo di migranti, dal mio passato come militante nella promozione del dialogo fra culture, voglio mettere l'accento sul tema del dare accoglienza. Da sempre la tavola è un luogo di condivisione dove potersi sentire parte di un insieme. E probabilmente il pane, almeno in questa parte del mondo, è un cibo che simbolicamente rappresenta proprio questo spirito di condivisione. Quindi, da buon toscano, visto che la ricetta della ribollita ve l'ho già data, dedico a tutti i migranti e a tutti quelli che si sentono tali la ricetta della pappa al pomodoro, che per uno di Firenze è come darvi le chiavi della città. Gli ingredienti per 4 persone per la pappa al pomodoro sono 300 g di pane toscano raffermo, 2 porri, 250 g di pomodori maturi o passata di pomodoro, 2 spicchi di aglio, mezzo litro di brodo vegetale, del basilico fresco, olio extravergine d'oliva di quello buono, pepe nero a manciate e sale. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Be that man. Tagliate i porri a rondelle e lasciateli in immersione in acqua per una decina di minuti per togliere la terra che potrebbe nascondersi al loro interno. Fate scottare in un tegame piuttosto capiente con mezzo bicchiere di acqua. Quando questa sarà evaporata, aggiungete 2 cucchiai di olio extravergine, qualche foglia di basilico spezzata a mano e l'aglio schiacciato e fate rosolare per 5 minuti. Successivamente aggiungete i pomodori passati, 2 bicchieri di acqua e lasciate ritirare a fuoco lento aggiustando di sale e pepe. Tagliate il pane raffermo a fette spesse 1 cm e unitelo alla salsa di pomodoro. Se il pane non fosse sufficientemente secco, fatelo tostare qualche minuto in forno. Coprite il tutto con del brodo vegetale e fate cuocere a fuoco lento, lavorando con una frusta, fino a quando la pappa avrà assunto una bella consistenza cremosa. A fine cottura aggiungete altro olio extravergine e qualche foglia di basilico che utilizzerete anche come guarnizione. Servite preferibilmente in contenitori di coccio. Trickster and seductress we, tap dancing on minefield every day, in volatile sway. Young and Freud would kill each other over us, yet somehow we just stay. Oggi la musica è tutta incentrata intorno a Migranti e Giornata della Memoria. Abbiamo ascoltato Different Train di Steve Reich, Gli italiani d'Argentina di Fossati, dei frammenti di compositori morti in campo di concentramento o la cui musica era considerata degenerata durante il regime nazista. Poi c'è spazio anche per assaggi di altre declinazioni di migrazioni, come quella dei volati. Adesso ci focalizziamo su un brano algerino del 2005, dei rapper Reda Taliani e 113, che si chiama Partir Loin, che con un ritmo scanzonato parla dei ragazzi che decidono di andare lontano. Una strofa dice: «O barca, amore mio, portami fuori dalla miseria, nel mio paese mi sento umiliato. Sono stanco e mi sono stufato, stavolta non perderò l'occasione, nella mia testa è da un sacco di tempo, l'emigrazione mi ha fatto dimenticare chi sono. Ci lavoro su giorno e notte, o barca, amore mio, portami fuori dalla miseria, evasione speciale dall'Algeria all'Occidente». Allez, où Joséphine? Allez, laissez-moi de toi. Ah bon, c'est comme ça. Mais Aïni 113, Daliani. C'est bon. Écoute. Et un babour, y'a mon amour. Kharjni, m'la misère. Moi je suis de Californie, on fumait 350 Benji sur les bords de la corniche. Habchini, Merli, j'ai rien à perdre. Rimka le malade mental, plus connu que le hedge m'en bas. Je voudrais passer les aînés à ma bien-aimée avant que je taille. Comme chef Hesney, je suis sentimental. Partir loin, rien à perdre, vie Boston ou lâchez pas. Laissez-moi de toi, comme Robinson sur une île. Mon mouton, j'appellerai mercredi. Et dès que l'avion atterrit, j'applaudis. Comme les Chibeni, je vous rends la carte résidence. Un moment d'évasion, Yahmar, lève-toi et danse. Ça fait plaisir. Et le babour, y'a mon amour. Kharjni m'en la misère. Débrouillard, je t'annonce, amène-moi loin de la misère, mon plus fidèle compagnon. En route pour l'Eldorado, même en classe, c'est Codirou, sac à dos. Partir loin, sans les cousins, les placards, c'est dur. Je me considère chanceux d'être en vie, pourvu que ça dure. J'ai grandi qu'avec des voleurs, j'aurai toujours les you-you qui résonnent dans ma tête à la quête du bonheur. Nei giorni scorsi c'è stata una sentenza storica della Corte Costituzionale in merito alle specie cacciabili, che dà ragione alle associazioni anticaccia. In pratica sono stati ritirati alcuni emendamenti della Lega che avrebbero indotto una pesante deregulation venatoria e che erano stati proposti nel decreto legge semplificazioni. Un emendamento permetteva di aggirare la norma sull'annotazione immediata dei capi abbattuti sul libretto venatorio. Una norma essenziale per evitare che a fine giornata gli abbattimenti siano oltre i limiti consentiti. Un secondo emendamento avrebbe permesso, per la prima volta, che i cacciatori sparassero in modo sistematico all'interno dei parchi. Infine, un terzo emendamento voleva trasformare le attuali aziende venatorie, nelle quali non è consentito l'abbattimento degli uccelli migratori, in riserve di caccia vecchio stile, cioè una vera e propria zona franca per un nuovo business venatorio. Come dire, la fauna selvatica trasformata in merce da supermercato. Ringraziamo i senatori di maggioranza e di opposizione delle commissioni affari costituzionali e lavori pubblici per le decisioni assunte, dichiarano le associazioni LAC, LAV, LIPU e WWF, che rivolgono il più vivo ringraziamento anche a tutti i cittadini che, soprattutto attraverso i canali social, hanno contribuito a sostenere una battaglia dalla parte della natura e degli animali selvatici. Thank you. 2018 e gennaio 2019, ben due allevamenti di visoni sono stati annunciati in chiusura. Una magnifica notizia, anzi due magnifiche notizie per quella parte della società che da anni si impegna per la liberazione animale, contro ogni gabbia, contro ogni allevamento, inclusi naturalmente quelli per produrre le pellicce. Nel dicembre 2018 ha dichiarato la sua chiusura lo storico allevamento di visoni di fossoli di carpi, attivo da 60 anni. Il motivo è la crisi di un mercato, quello della pellicceria, che soffre della pesante concorrenza della Cina. Inoltre, così hanno dichiarato gli allevatori, è sempre più difficile allevare una specie alloctona come quella del visone, con forti rischi ambientali in caso di fuga di esemplari o liberazione di animali. Gli attivisti hanno calcolato che circa 4.000 visoni venissero uccisi ogni anno in modo crudele, dopo una ancora più crudele prigionia. E la struttura era stata oggetto di blitz e proteste nel corso degli ultimi anni. Il neonato 2019 poi ci regala la chiusura di un altro allevamento di visoni, quello di Misano di Gera d'Adda, Bergamo. L'allevamento uccideva circa 2.000 animali ogni anno, ma oggi, dopo solo 4 anni di vita, le sue gabbie sono già, o forse sarebbe meglio dire finalmente, vuote. Le strutture non sono ancora state smantellate, ma le istituzioni locali confermano la chiusura dell'attività. Evviva! Gioisce con noi, anzi prima e più di noi, l'associazione Esseri Animali, che ha animato tante campagne contro gli allevamenti di visoni, in particolare quella più nota era stata lanciata con l'hashtag Io sto con i visoni. E bravi i ragazzi e le ragazze di Essere Animali. E vi dà appuntamento alla prossima puntata la nostra redazione al completo, composta da Roberta Marino, Francesca De Matteis, Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Giuseppe Coco e da Camilla Lattanzi, la voce che vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio. L'appuntamento con la puntata numero 470 di Restiamo Animali è tra una settimana esatta, meno 30 minuti, stesse onde, stessa ora. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.